meglio ridere quando piangerai e ti dirai pensandomi aveva sì ragione lui e capirai perché voglio ridere quando piangerai e non saprai nascondere quel po' di me che troverai nei gesti tuoi e in te. Ma pian piano ti sorprenderai vedendo che col tempo hai dato sempre più ragione a me e sarai come volevo anche se sarò molto lontano da te. Voglio ridere quando piangerai e morirai pensandomi, anche se mai lo ammetterai, ti mancherò.